si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno e buon sabato, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Buongiorno da Alessio Maurizi. I nostri contatti, se volete interagire con noi fin da subito in tempo reale, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Cominciamo come sempre tra poco dando un'occhiata alle pagine dei giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci condurrà fino al giornale radio delle 8. Dopo riprenderemo con un po' di ospiti i nostri approfondimenti. L'unico programma inimitabile a caccia sempre di buone notizie. Partiremo, ve lo dico subito, dal decreto Lorenzin, quello sulla medicina cosiddetta difensiva. Cercheremo di capire se è una buona notizia, cioè se, come dice il ministro, il taglio di queste prestazioni che i medici offrono ai pazienti soltanto per paura di ricevere delle cause milionarie da parte di studi di avvocati enormi, se questi soldi risparmiati fino a 13 miliardi di euro serviranno, come dice la Lorenzin, per investire sempre sulla sanità, in spese più importanti come l'oncologia, oppure tagliare le code per fare le analisi quelle importanti, oppure se, come temono i sindacati dei medici, le associazioni di consumatori e di cittadini, che temono soltanto un taglio di prestazioni e uno spostamento verso il sistema sanitario privato, perché alla fine le persone che andranno dal medico e non potranno fare più l'analisi dei trigliceridi se non ogni 5 anni, andranno a farsele fare privatamente, e questo cercheremo di capirlo. E poi andremo anche a Parma, dove si sperimenta un metodo di accoglienza dei profughi nuovo. Sindaco Movimento 5 Stelle Pizzarotti in sostanza dice: mentre Bruxelles decide sulle quote di ripartizione dei profughi in tutta Europa, mentre si decide sugli hotspot, mentre il governo cerca di organizzarsi per l'accoglienza o insomma insieme agli altri paesi europei per la gestione di questi flussi migratori, ecco, noi sindaci è bene che ci tiriamo sulle maniche e mettiamo a fare i lavori socialmente utili questi profughi che non possono stare lì con le mani in mano. Serve per le comunità che li accolgono, ma serve, ricordiamolo, anche per loro, perché stare mesi e mesi senza far niente lì da qualche parte buttati così non è una roba che non si può vedere, questa cosa qua. Va bene, cominciamo con la rassegna, vai. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, ancora gli sviluppi del caso Volkswagen, ancora la visita del Papa in America, ma anche la ripresa dell'economia americana e all'orizzonte il rialzo dei tassi di interesse, tante cose sul giornale di oggi. Cominciamo con il Corriere della Sera, che però titola su un altro argomento: fisco leggero sulle partite IVA. Agevolazioni per chi inizia, per le start-up e per i professionisti sotto i 30.000 euro. Novità sulla tassazione appunto per le partite IVA: il governo va verso una semplificazione delle misure per favorire i piccoli professionisti e chi inizia un'attività. Tra le novità anche un tax day, sempre diciamo sulla scia lunga delle edizioni in inglese, che poi non si sa mai se nascondono in realtà dei significati che in italiano sarebbero indicibili, in questo caso forse no, un tax day, cioè una giornata delle tasse per l'unificazione delle scadenze fiscali. Sul tema delle partite IVA il governo Renzi si è giocato un po' di credibilità, perché sono state prese delle misure che non sono piaciute per niente ai freelance, a quelli che adesso con i loro contributi contribuiscono a pagare le pensioni, anche magari le super pensioni, ma che in futuro le pensioni forse non le vedranno nemmeno. Questo è un argomento. L'altro titolo principale sul Corriere è un patto sul clima tra Obama e Xi Jinping, il leader cinese, la visita a Washington del leader cinese, la prima visita ufficiale in America, ha prodotto risultati positivi, forse superiori alle attese, su clima e sul cyberspionaggio, ma sulle questioni militari e geostrategiche le posizioni, scrive il Corriere, rimangono molto distanti. Poi che altro? Il Corriere si occupa anche del caso FIFA. Platini nel caso FIFA per i soldi di Blatter. Succede che i magistrati svizzeri, tra tutti quelli che stanno indagando su questo grandissimo affair di illegalità nel calcio mondiale presunto, i magistrati americani, inglesi e anche quelli svizzeri sono i primi ad avere trovato, quel che si è saputo ieri, delle prove sulla questione Blatter, e c'entra di mezzo anche Platini. Mazzette per assegnare i mondiali in Sudafrica, ricordiamo, nel 2010, pesantissimi sospetti sui campionati del 2018 e del 2022, tangenti per i diritti TV in Sud America, biglietti venduti a prezzi gonfiati, sono queste alcune delle accuse attorno a cui ruota lo scandalo della FIFA. In questo caso le accuse di gestione fraudolenta per Blatter ruotano attorno a un pagamento a favore di Platini. I fatti, nel 2011 l'ex campione della Juve riceve dalla FIFA un imponente versamento che oggi i magistrati definiscono un disloyal payment ordinato da Blatter, 1,8 milioni di euro. C'è una stranezza, infatti la fattura viene saldata con quasi 10 anni di ritardo. Si riferisce a un lavoro svolto da Platini 10 anni prima e quindi il sospetto è che sia una mazzetta mascherata. Platini ieri è stato sentito come persona informata dei fatti, ha detto: sono felice di avere chiarito tutto. Si riferisce questo pagamento a un lavoro che ho svolto nell'ambito di un contratto con la FIFA. Però oggi alcune fonti citate dalla Reuters dicono che Platini avrebbe fornito prove contro Blatter. Di certo negli anni passati i due sono stati una coppia molto affiatata, quindi insomma ufficialmente entra anche Platini in qualche modo nello scandalo FIFA, che per ora ha coinvolto Blatter, che resta lì appeso dopo aver dato le dimissioni, ricordate, e averle poi ritirate. Sulla visita del Papa in America c'è un personaggio che ieri è apparso, un video girato su tutto il web, ed è il signor Boehner, John Boehner, speaker della Camera, repubblicano. Stamattina quando mi sono alzato ho detto le mie preghiere e poi ho ripensato alle parole del Papa, il suo invito a non dividersi, a evitare conflitti e a non fare agli altri quello che, che vorresti fosse fatto a te, e ho deciso di dimettermi. È finita così, con un annuncio che ha colto di sorpresa il suo partito e lo stesso presidente Obama, la carriera politica dello speaker della Camera, il repubblicano John Boehner, che parlando alla stampa ha ancora una volta faticato a trattenere le lacrime dopo aver pianto il giorno prima durante una visita del pontefice che proprio lui, cattolico fervente, cercava di organizzare da 20 anni. Lui è un figlio di una povera famiglia di Cincinnati, in Ohio, era riuscito a diventare presidente di un'azienda, poi leader del più importante del congresso per il suo partito, i repubblicani, e lo avete visto, forse molti di voi l'avranno visto in questo video, il Papa parla e lui scoppia proprio in lacrime per una vera, credo, commozione interiore, fatto di trovarsi lì a fianco a questo al pontefice, al leader spirituale della Chiesa Cattolica, e insomma è stata una storia che ha colpito un po' l'immaginario. Il Papa, poveri e ambiente, le vere vittime. Cosa ha detto il Papa ieri parlando anche all'ONU? Nel mondo ci sono molti falsi diritti, ampi settori senza protezione, vittime di un cattivo esercizio del potere, l'ambiente naturale e il vasto mondo di donne e uomini esclusi. L'esclusione economica e sociale è una negazione totale della fraternità umana, un gravissimo attentato ai diritti umani. Così il Papa. Repubblica invece si occupa del disastro morale alla Volkswagen, il mea culpa del nuovo numero uno Matthias Müller, l'ex capo della Porsche che prende il posto scomodo di Winterkorn, e con le parole tra l'altro ieri della, il capo della banca della Bundesbank, Weidmann, che ha detto: questo scandalo ha compromesso il Made in Germany ed è importante che si chiarisca rapidamente. Un monito pesante da parte del presidente della Bundesbank, che getta un po' un'ombra in questo momento qua, sì, su tutta il Made in Germany, su tutta la Germania. Il nuovo capo Müller ha detto: solo con umiltà e trasparenza torneremo forti. Però c'è ancora attesa per la lista dei modelli coinvolti in questo scandalo delle emissioni truccate, le emissioni inquinanti. E quindi, se da un lato la Volkswagen ha preso atto rapidamente che doveva cambiare passo e ha mandato a casa l'ex capo, Dall'altro, tutta questa trasparenza ancora non si vede. Müller ha promesso un nuovo inizio, ammettendo però che sarà difficilissimo, è un disastro politico e morale, ha detto, un danno enorme causato da un piccolo gruppo di manager. Potremo tornare più forti di prima solo se ce la faremo a rinnovarci con trasparenza e ambiente come priorità. L'umiltà deve essere il nostro motto nel gioco globale. Benissimo, però è difficile credere alle parole del signor Müller, perché questo piccolo gruppo di manager che ha fatto questa truffa, di fatto, ha agito nell'interesse dell'azienda, e quindi è difficile credere che lo abbiano fatto contro il parere dei vertici, però questo è quello che adesso la Volkswagen vuole farci credere. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta oggi il giornale a un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, all'interno della rassegna stampa con cui arriviamo al giornale radio delle 8. Stiamo parlando del caso Volkswagen. 2,8 milioni di auto truccate in Germania. Intanto il Dipartimento di Giustizia americano condurrà un'indagine sua, così come per esempio in Svizzera le autorità hanno sospeso temporaneamente la vendita dei modelli Volkswagen con motori diesel, tutti in attesa di sapere quelli che sono strettamente coinvolti nella vicenda delle emissioni truccate. Per quanto riguarda l'Italia, il ministro Del Rio ha detto: stiamo facendo dei controlli, l'esito ci sarà entro 3 mesi, controlli che per ragioni economiche riguardano un campione di 1000 autovetture, perché di tutte le marche, tra l'altro, vendute in Italia. Quindi diciamo si cerca di intervenire ad ampio spettro, non solo sulle Volkswagen, ma su tutte le auto di tutte le marche. Sono test molto costosi, 8000 euro a vettura, ci vorranno 3 mesi e sapremo se in Italia circolano vetture che hanno delle emissioni reali davvero molto molto maggiori rispetto a quello che dicono invece i test delle stesse case automobilistiche. Repubblica ha anche un'altra notizia che credo che sia un'esclusiva. Vendita del Milan e diritti TV, i PM aprono un'inchiesta. Ci sarebbe infatti una inchiesta, il condizionale è d'obbligo, ma è su questi due aspetti, cioè sui diritti TV, cosa che già si sa, su cui sta indagando non solo la Procura di Milano ma anche la Procura di Roma, e in questo caso però anche sul passaggio del Milan da Berlusconi a Mr. B e alla cordata thailandese. Leggiamo: i diritti TV del calcio e la scalata del Milan nel Milan della Procura di Milano, con un'ipotesi di reato non tranquillizzante nella spartizione della ricca torta dello sport più amato e seguito sui canali a pagamento, qualcuno avrebbe gonfiato i costi. Però dicevamo, se l'inchiesta sui diritti TV e la loro spartizione non è una novità, perché anche le procure di Roma e Velletri ci stanno lavorando, nella rete degli inquirenti milanesi sarebbero finiti ora anche filoni dedicati alla gestione del mondo calcistico, come il ruolo e i collegamenti con la società Infront, che gestisce la cessione all'estero delle partite della Serie A, ma soprattutto tra le carte dell'accusa ci sono anche tracce dei movimenti societari che hanno accompagnato la discussa compravendita del Milan dalla famiglia Berlusconi al thailandese Mr. B. L'acquisizione del 49% della società di Via Turati da parte di B è stata accompagnata da alcuni misteri. Al momento altre notizie particolari su questa inchiesta non ci sono. Ammesso che la notizia sia fondata, sia vera, questo è quello che scrive oggi Repubblica. Il Sole 24 Ore invece naturalmente si occupa della ripresa americana, perché la ripresa USA spinge le borse, miglior listino Milano più 3,68%, la crescita dell'economia USA si rafforza abbastanza da convincere la Federal Reserve, la banca centrale americana, a chiarire le proprie intenzioni sul rialzo dei tassi di interesse, rialzo già ventilato la scorsa riunione, atteso. Ecco, arriverà entro l'anno, ha detto la presidente Yellen. l'allegrezza dei mercati, il commento di Fabrizio Galimberti, è anche dovuta al giudizio implicito sulla saldezza della ripresa americana. Ci possiamo permettere di alzare i tassi, scrive il Sole 24 Ore, perché l'economia americana va bene, il che è una buona notizia non solo per l'America. Naturalmente abbandoniamo il Sole 24 Ore e andiamo... Beh, intanto il giornale che ha un titolo sulla affair della famiglia Renzi, tutte le carte sul papà di Renzi, finanziamenti e silenzi. Più si scava nella faccenda dei fidi concessi illegittimamente all'azienda del padre di Renzi, più si scoprono coincidenze strane. Perché il tesoro che ci perseguita con le cartelle esattoriali non ha chiesto i soldi indietro a Tiziano Renzi, scrive prima il giornale? Perché il padre di Lotti firmò il finanziamento nei giorni in cui il premier assunse suo figlio? Perché il magistrato che ha chiesto l'archiviazione della vicenda è stato promosso procuratore di Como? La strana azienda del babbo di Renzi che arruolava i clandestini. La Arturo di Tiziano Renzi finì nei guai per gli immigrati strilloni, tra gli stranieri un futuro uxoricida e uno sfruttatore di prostitute. Questo l'approfondimento di prima pagina del giornale. Invece il Messaggero, titolo principale, è sugli statali, perché ieri in Consiglio dei Ministri è stato sfiorato anche questo argomento. Arriva la pagella per gli statali, cambiano i meccanismi, le valutazioni affidate a una commissione, a una super commissione e a una rete nazionale. Le prestazioni professionali dei dipendenti statali e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, cose di cui parliamo da 100.000 anni, saranno valutate. È uno degli obiettivi della riforma della pubblica amministrazione. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha fatto sapere che intende cambiare i meccanismi assegnando la valutazione ad una super commissione e anche a una rete nazionale di esperti. Queste sono notizie, diciamo, tutte ancora di là da verificare, di là da venire. Quello che invece è accaduto veramente ieri a Roma è un fatto di cronaca pesante nei confronti ancora una volta di un autista di un mezzo pubblico. Non passo, spostate! E il branco massacra l'autista del bus. È successo giovedì, andiamo a leggere. Scena d'ordinaria follia 18 di giovedì in piazza della Rustica, dove un autista della linea 447 della Roma TPL è stato massacrato in mezzo alla strada, inseguito, pestato mentre si faceva medicare addirittura dagli operatori del 118, solo perché aveva osato lamentarsi. Guarda che casino che è successo, sono 5 minuti che sto qui. Così l'autista, dopo varie strombazzate, aveva detto al conducente dell'auto in doppia fila. Dentro la macchina c'era una ragazzetta a modo che si era affacciata per fargli capire a gesti: io da qua non mi sposto, faccio come mi pare. Allora Giovanni, l'autista, non si è perso d'animo, ho insistito, ha detto poi ai cronisti. Alla fine l'auto si è spostata, ma solo di pochi metri, perché poi si è fermata di nuovo. E allora io ho protestato ancora, il ragazzo che era con lei è sceso, la macchina è rotta, non te la sposto più, ha detto. Si è avvicinato sotto il finestrino della cabina del pilota e con un pugno ha rotto il vetro, sbriciolandolo. Le schegge sono finite in faccia all'autista, che ha cominciato a sanguinare. È arrivato il 118, è sceso per farsi curare. A quel punto alcuni amici e parenti dei due ragazzi con l'auto ferma che intralciava il traffico sono andati addosso all'autista e hanno continuato a menarlo. La foto che del povero autista con i cerotti da tutte le parti è abbastanza esplicita. Questo è quello che è accaduto giovedì a Roma. Cose raccapriccianti, raccapriccianti. E va bene, anzi va male. Sa che siamo in chiusura. Qualche altro titolo velocemente. La Stampa, il Papa all'ONU, terra, lavoro e casa per tutti. Poi la fotonotizia sulla svolta verde di Pechino sul clima, patto con gli Stati Uniti dal 2017, la Cina taglierà le emissioni di gas serra. Poi ancora titoli sulla vicenda Volkswagen, un disastro morale e politico, l'abbiamo già letto. Volkswagen prova a svoltare. Il Fatto Quotidiano invece titola sulla RAI, i grandi risparmi della nuova RAI, 7 microfoni inviati per seguire Renzi a New York. E anche questa è Spending Review. Ci fermiamo, c'è il giornale radio, torniamo dopo, parleremo di come Parma, Movimento 5 Stelle, accoglie i profughi, ma soprattutto affronteremo il decreto Lorenzin sulla medicina difensiva. Cercheremo di capire se è o non è una buona notizia. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Eccoci qua, buongiorno anche a Peter Bescapè in regia, ciao Peter, buongiorno a Claudia Schiattone in assistenta oggi, assistenta oggi. Sono contento che abbia iniziato tu invece sbagliando una consonante. Perfetto, di solito sbaglio sempre io, va ricordato. Milano Monterosa, sole. Sole, bello, una bellissima giornata, un bel sabato. Speriamo con un po' meno traffico di ieri, che ieri con la moda è stato un disastro. Milano era completamente imballata ed era impossibile. Sono le settimane calde di Milano, sì, in tutti i sensi. Sì, che già c'è Expo, se poi ci metti pure la moda, diciamo, è stato molto difficile. Allora, cari ascoltatori, tra poco cominceremo chiedendoci se insomma è un argomento spinoso questo qua della medicina difensiva, del decreto Lorenzin. Ieri scadevano i termini per le presentazioni, diciamo così, dei pareri dei sindacati dei medici, che sono tutti in contrari, sono tutti infervorati contro il decreto Lorenzin. Insomma, cerchiamo di capire se è una buona notizia, cioè se come dice lei, i risparmi di queste 208 prestazioni che non sarà più possibile per i medici prescrivere così tanto facilmente a cuor leggero per fare altre cose, per esempio nella medicina oncologica, eccetera, oppure se, come temono i sindacati dei medici, ma anche le associazioni dei consumatori, insomma, sarà un taglio di prestazioni, ci sarà un spostamento verso la sanità privata, che è già un po' in corso. Serie A, taglio, serie B, direi che è evidente, cioè, poi c'è da capire se quei soldi verranno reinvestiti o c'è da capire. Questo appunto, anche come tutti sappiamo che in realtà quei soldi servono, però è abbastanza preoccupante. Ecco. Insomma, è giusto stare lì. Guardinghi, ma lo so. A me l'idea che l'esame del colesterolo, se va bene, poi lo puoi fare 5 anni dopo. Sono tanti 5 anni. In quei 5 anni rischio di morire. Tu in che epoca storica invece avresti voluto vivere? Ormai c'è tutto il paese che è agitatissimo. Sì. Appena qualcuno ti dice: senti, scusa, volevo farti una domanda. Tu in che epoca? Veniamo tutti. Sì. Abbiamo tutti escluso il 42, direi. Sì. Ricordiamo dopo la risposta di Miss Italia. Sì. Ieri sul web ho letto questa. Uno potrebbe dire: all'epoca del grande impero persiano, tanto uso le tapparelle, che me frega. Ma sono nate un sacco di pagine che fanno il verso alla risposta di Miss Italia, che avendo lei risposta, io ho risposto: io voglio vivere nel 42 perché tanto c'è la guerra, ma io sono donna e le donne in guerra non ci vanno. Poi ha rettificato in realtà, perché dice: so che era un momento terribile per tutti, anche per le donne, ma ho detto così perché vorrei capire quello che ha vissuto mia nonna. Che uno dice: vabbè, chiedi a tua nonna. No, non è che devi. Però scusami, cioè, io dico: ma che senso ha fare queste domande alla Miss non in mutande, ma insomma in costume, a cosce di fuori, affrontare gli argomenti che pensa. Woody Allen ci ha fatto anche un film su questo, Midnight in Paris, cioè un argomento bello, storico, anche filosofico, esistenzialista, però a una Miss che è lì a esibire il suo corpo, non è il contesto. Sono abbastanza d'accordo con te, e la questione è sempre la solita. Vorrei vedere voi, cari ascoltatori. Sì, la vera cosa è sempre la questione: è se è solamente un concorso di bellezza. Uno dice: stiamo premiando la bellezza, non è che io voglio sapere che cosa ne pensa lei della fusione nucleare, perché forse non è esattamente la persona giusta. Ciò non toglie che un po' è anche per fare spettacolo, bisogna fargli delle domande, perché sennò viene lì una allora, che è muta, bellissima, ma assolutamente che sa dire solamente Miss Italia è muta, è la tua idea di donna che ti piace, perché tu dici bellissima, che dice solo per me no. Cari ascoltatori, all'800 24 00 24 voi in che epoca storica vorreste vivere? Potete rispondere quello che volete, sappiate però che vi faremo delle domande successive per mettervi un po' in difficoltà e vedere se anche voi non cascate in qualche gaffe, in qualche contraddizione, perché la diretta è così, non è facile. No, indenni. Questo vediamo, l'ho sempre detto. E chi risponderà bene, correttamente, chi ci piacerà di più, come sempre, un piccolo premio in palio, la guida, la mini guida di Expo anche oggi. 800 24 00 24. Insomma, partiamo da lì, dall'epoca storica. Io per esempio vorrei vivere nella Parigi degli anni 20. Ci ho pensato ieri, Parigi degli anni 20, tra Hemingway e Picasso. Ah, Bohemien, sai, quelli che stavano lì da un caffè, certo, all'altro, a non fare un tubo tutto il giorno. Bellissimo. Bellissimo se sei Picasso. Però c'era la guerra, so, anche lì, quindi vedi, in ogni periodo in realtà c'è la guerra. Quindi diventa molto difficile. Caro dottore, sono qui da 3 ore. Paziente va bene, ma solo per nome. Sono qui, c'è un motivo che vale, un grosso problema, un strano gonfiore. Scusi dottore, le sembra normale che dopo 6 volte non riesco a placare la fame che più di ogni cosa mi assale? La prego dottore, mi vuole curare? Voglia d'amore, no, non credo dottore, sto rischiando l'usura, sono anni che dura. Serve una cura, del dottore, scusi la mia indiscrezione, è un impulso diretto che parte di scatto e arriva di certo. Allora, l'abbiamo detto, il governo conta di risparmiare fino a 13 miliardi di euro dal taglio degli esami medici inappropriati. È questa la parolina magica utilizzata per definire gli esami chiesti dai pazienti, concessi dai medici, per paura di cosa? Delle ritorsioni in forma di cause legali da parte di questi studi di avvocati milionari. Cause che sono in crescita, in netta crescita in questi anni. Noi ci siamo detti, insomma, se ogni forma di risparmio dei soldi pubblici, di spending review, è da accogliere positivamente, sprechi, però vogliamo sapere se non ci va di mezzo, insomma, la prevenzione, la cura, la salute di ognuno di noi. C'è un limite anche a limitare gli sprechi, nel senso che se sono sprechi, esatto, va bene, se però poi sono degli sprechi che salvano delle vite, diventa più difficile giudicare. Chiediamo soccorso a Sabrina Nardi, vice coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanza Attiva. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, i medici, lo sappiamo, sono contrari a questa cosa qua, sono previste anche delle sanzioni nei loro confronti, si sgarreranno rispetto a questa lista di 208 prescrizioni, già si devono fare l'assicurazione contro le cause legali, quindi sono già disperati. Però noi vogliamo sapere il punto di vista dei pazienti, dei cittadini. Voi siete in primo piano da questo punto di vista sempre, come Cittadinanza Attiva. Intanto un giudizio generale su questo decreto Lorenzin. Allora, quello che noi stiamo dicendo in questi giorni è che l'appropriatezza, a questo dovrebbe servire questo decreto, è importante, significa non fare delle prestazioni che sono inutili, ma soprattutto quelle dannose per i cittadini. È giustissimo, va fatta, ma crediamo che non vada fatta in questo modo, attraverso un decreto. Ci sono altri modi per farlo e lo dicono tutti, la formazione del personale, cioè aiutare il medico a capire cosa dice la letteratura e a scegliere in scienza e coscienza, avendo di fronte quel paziente, visitandolo, cosa è meglio per lui. Ma c'è anche la possibilità di risparmiare esami inutili veramente, per esempio facendo comunicare i software, quindi i dati, sì, da uno specialista all'altro, perché a volte in maniera inconsapevole si riprescrive in maniera, giusto, automatica lo stesso esame, e questo permetterebbe per esempio di non ripeterlo a distanza di poco tempo se non è necessario. Ma è vero che una cosa del genere avviene, per esempio c'è un progetto dell'ASL di Trento, mi sembra di aver visto da qualche parte, che ha già un software di questo tipo in azione e quindi sta sperimentando proprio, cioè si accende una lucetta rossa quando tu prescrivi un TAC per un ginocchio, è già stata fatta 6 mesi fa per esempio, 3 mesi fa, è vero? A Trento. Esatto, l'abbiamo visto con i nostri occhi, noi stiamo girando tutta Italia, il Tribunale per i diritti del malato sta girando tutta Italia per festeggiare i suoi 35 anni di attività e abbiamo visto esperienze positive come questa. Se ma questa non c'è, chiamato, questa non c'è dentro nel decreto, giusto? No, non la troviamo. Se il ministro ci avesse chiamato, le avremmo dato dei suggerimenti dicendo come funzionano già in realtà alcuni posti in cui questo lo stanno sperimentando e sta portando dei risultati. Quindi l'appropriatezza va perseguita vita, non penalizzando né il medico né il paziente, ma anzi cercando di ricreare un rapporto di fiducia sempre più collaborativo, dove uno è di supporto all'altro e dove ognuno può fare la sua parte. Così invece si rischia soltanto di aumentare il contenzioso e, come diceva lei bene prima, di andare nel privato. E le spiego anche perché. Perché che cosa succederà? Il medico, in scienza e coscienza, se vede la persona di fronte a lui e ritiene che quell'esame che è nell'elenco, i 208, ritiene che sia utile per non incorrere in sanzioni oppure per non finire sotto giudizio, perché in realtà, come dice il ministro, potrebbe prescriverlo ma poi deve spiegare perché lo sta scrivendo, per non avere anche queste ulteriori incombenze, cosa fa? Dice: secondo me è utile, però te lo scrivo sulla ricetta bianca, così te ne vai te lo privato. Fai privatamente, te lo fai privatamente, e naturalmente chi se lo può permettere lo fa, chi non se lo può permettere o insiste con il medico oppure torna a casa a mani vuote. Senta, però della questione della sanità privata, diciamo, possiamo parlare, perché è un tema, è anche un po' uno spettro, perché sappiamo che la sanità è un diritto assoluto di tutti, non si scappa, e mentre la sanità pubblica in Italia ha dato buona prova di sé, anche se poi se ne parla spesso male per casi di mala sanità, e voi col Tribunale dei Diritti del Malato siete sempre in prima linea. Però le voglio chiedere un'altra cosa sulle cause, le cause legali, perché spesso anche voi raccogliete delle telefonate, le richieste, casi di mala sanità, e poi si finisce in causa, no? Quante volte, che percentuale c'è di cause sulle richieste da parte dei cittadini? Allora, le dico, per quel che ci riguarda, quando una persona ci chiama dicendo che sospetta di aver subito un danno, analizziamo la documentazione e diciamo se ci sono tutti i presupposti per andare avanti con un giudizio oppure no, e le devo dire che non è la grande percentuale. Quello che manca molto spesso e che vediamo dalla nostra esperienza è che la persona non è stata informata adeguatamente, non si è sentita posta al centro o è stata sminuita in quello che diceva, e questo fa sospettare che c'è un errore. Però ci sono dei dati ufficiali, che sono quelli delle assicurazioni, che dicono che l'80% delle persone che richiede un danno lo ottiene, quindi significa che 8 persone su 10 chiedono un danno a ragione, non lo sta chiedendo sulla scia di chissà che cosa, ma proprio perché ci sono tutti gli elementi, quindi il danno l'ha subito. Ma questo danno, anche questo mi incuriosisce, diciamo, queste cause per questi danni nascono, come dice la Lorenzin, da prescrizioni non concesse o anche da interventi chirurgici non riusciti, da altre cose, da diagnosi, cose che non c'entrano con le prescrizioni mediche? Guardi, può derivare da una mancata diagnosi, cioè una diagnosi che arriva troppo tardi e quindi la persona ha dei danni notevoli, che ne so, un cancro che non viene visto in tempo e che compromette la salute o addirittura la vita della persona. Però, però in questo caso, però in questo caso il decreto Lorenzin non può incidere, perché si parla di una diagnosi o di un intervento, non parliamo di prescrizione di esami. Ma guardi, in realtà si sta facendo un po' di confusione in questo. Il decreto appropriatezza dovrebbe portare all'appropriatezza e dare delle indicazioni stringenti al medico, per dire: se ti trovi di fronte a questa situazione lo puoi prescrivere, se sei di fronte a quest'altra non lo puoi prescrivere, decidendo, diciamo, con una tabella cosa fare. Questo dice il decreto, e dice anche il regime di erogabilità, cioè se quella prestazione te la può dare il Servizio Sanitario Nazionale piuttosto che no. Questo sta dicendo, quindi sostanzialmente rivede i LEA, i livelli essenziali di assistenza, cioè quelle prestazioni a cui ognuno di noi ha diritto su tutto il territorio nazionale. Non va a incidere sul risarcimento del danno o sulla medicina difensiva. Si sta facendo quindi un po' individua, di confusione. Si individua un nemico, che è la medicina difensiva, però poi si trova uno strumento che non incide molto su quello, almeno stando a quello che dice lei. Esatto, stanno discutendo un decreto di legge, un DDL, che dovrebbe occuparsi della responsabilità professionale. E vediamo che cosa dice. In realtà temiamo che ci siano delle drastiche riduzioni azioni per i diritti dei cittadini, soprattutto perché si comincia a parlare di inversione dell'onere della prova, vale a dire che dovrà essere il cittadino a dimostrare di aver subito un danno nonostante non sia un medico, nonostante quando è in sala operatoria è sotto anestesia e quindi non è che è proprio cosciente di quello che sta accadendo. Direi quindi dobbiamo essere molto vigili per evitare che in virtù dei risparmi tagliamo diritti, e noi questo rischio lo vediamo nel decreto inappropriatezza ma anche nel DDL sulla responsabilità professionale, e su questo non facciamo sconti come Tribunale per i diritti del malato, è evidente. Ma si possono fare anche degli esempi, che ne so, trigliceridi, in assenza di valori elevati o di cambiamenti dello stile di vita, l'esame lo puoi rifare dopo 5 anni. I trigliceridi sono importanti, no? per la questione della fluidità del sangue, così come il colesterolo. Anche qua, sotto i 40 anni non li puoi quasi prescrivere. Guardi, i medici sono in subbuglio per questo, io ne sto sentendo diversi, dicono sì, magari è vero che il rischio è limitato, ma io voglio poter valutare la condizione di quella persona, voglio poter prescrivere se ho un sospetto e voglio andare per esclusione alcuni esami, e così mi troverei con le mani legate. E questo ovviamente, quando parliamo di prevenzione parliamo di carta del rischio, quindi di verificare tutti i fattori di rischio, ma anche poter prescrivere degli esami del sangue che sono utili, come nel caso dei trigliceridi se il medico lo ritiene utile. Poi non hanno neanche dei costi così elevati, No, infatti volevo capire questo, mi scusi, io sono lo stupido dei due, ma però volevo capire questo, perché io quando vado a fare l'esame del sangue comunque pago il ticket, giusto? Perché, esatto. E che tra l'altro ed è tutt'altro che indifferente, nel senso che io ultimamente quando vado a fare l'esame del sangue si pagano anche tanti soldi, si pagano più di 100 euro se sono un po' di esami. Quello che non capisco, invece, adesso se io volessi andare a fare l'esame per il colesterolo pagherei più del ticket? No, lei pagherebbe il costo della prestazione e noi abbiamo denunciato anche questo. Il costo della prestazione è più del ticket. No, perché un esame del sangue e del colesterolo quanto potrà costare? Pochi euro, perché questi sono esami non così cari. Quindi oggi pagando il ticket paghiamo più del costo delle analisi? È questo il paradosso che sta creando queste politiche del taglio. Abbiamo messo un super ticket, quello dei 10 euro, che praticamente rende più conveniente fare degli esami del sangue nel privato piuttosto che nel pubblico, e sta soprattutto quelle che costano di meno al Servizio Sanitario Nazionale. E quindi questo è il vero paradosso. Non parliamo di grandi cifre come può essere un attacco o una risonanza quando parliamo di questi esami del sangue. Sono veramente di bassissimo costo. Il singolo esame. Esatto. Il problema grosso che lei ha in maniera chiarissima individuato è questo. In un momento in cui il 9,5% degli italiani rinuncia a curarsi per i costi troppo alti, per le liste d'attesa e perché l'organizzazione dei servizi rende difficile la vita dei cittadini, la priorità è quella di tagliare prestazioni e non preoccuparsi di come migliorare l'efficienza e di come migliorare l'accessibilità ai servizi. Sembra un po' paradossale, non crede? Sì, no, soprattutto più che paradossale, la cosa che mi chiedo è se il ragionamento molto miope, se devo dire, è quello per cui per avere il software, per esempio, per mettere insieme gli esami dei vari medici bisogna in realtà investire, non risparmiare subito. Si risparmierà fra un anno, 5 anni, non lo so, lo sa meglio lei di me. E invece si è scelto, come sempre, semplicemente di tagliare adesso, e questa cosa la pagheremo carissima fra 5 anni, è giusto? Ha ragione, è lo stesso discorso che facciamo noi, che facciamo poi i conti della casalinga, no? Guardiamo al Servizio Sanitario Nazionale come fosse casa nostra, e i servizi sanitari come fossero casa nostra, e vorremmo che fossero gestiti con altrettanta particolarità e con altrettanta attenzione. È per questo che siamo così attenti e anche abbastanza agguerriti su questo. Ieri però Veronesi, l'ultima cosa che le voglio chiedere, Umberto Veronesi ha scritto una piccola cosa sulla stampa dicendo, insomma, distaccandosi un po' dal parere dei medici, che sono tutti sul piede di guerra per questo decreto Lorenzini, ha detto beh, insomma, qualcosa bisognava pur fare per mettere un freno a questa questione delle cause da parte dei pazienti, grandi studi di avvocati e medici che entrano ormai in sala operatoria con il legale a fianco. Guardi, su questo, come dicevo, c'è un DDL che si sta discutendo. In realtà tutto quello che sta accadendo, non bisogna fare attenzione, perché per colpire quei pochi furbetti, che pure esistono perché non possiamo nasconderci, non ci possono rimettere tutti. Torniamo allo stesso discorso di prima, le liti temerarie, cioè quelle cause inutili, pretestuose, vanno colpite, ma quelle non chi ha diritto al risarcimento, e dobbiamo trovare il modo per rendere più tranquilli i medici a esercitare la loro professione, però facendo attenzione che questo non si trasformi sostanzialmente in minore garanzie per le persone e anche a minori investimenti sul rischio clinico, cioè su mettere maggiormente in sicurezza le strutture. Sappiamo bene, a volte gli errori che vengono compiuti derivano non per un'incapacità del medico, ma per un sistema, per un'organizzazione che non funziona. Quindi magari un intervento chirurgico perfettamente riuscito poi rischia di diventare letale, perché la persona torna in reparto, si prende la broncopolmonite, si prende un'infezione ospedaliera e poi non ce la fa. Questo dobbiamo evitare. Va bene, grazie. Intanto Sabrina Nardi, vice coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, cittadinanza attiva, grazie per essere stata con noi e averci aiutato, diciamo così, a iniziare a capire cosa c'è dentro il decreto Lorenzin sulla cosiddetta medicina difensiva. Insomma, qualche preoccupazione ce l'abbiamo, Io tantissime, ripeto, anche perché da ipocondriaco ho visto che ci sono alcune spiegazioni dove dice: tu puoi fare questo esame, ovvero la risonanza alla colonna, solamente se pensi di avere un tumore o se hai dei dolori oncologici certi. E siccome io sono ipocondriaco, io ce li ho sempre. A me basta che mi faccia un po' male l'orecchio, che dico: ma secondo me è un tumore. No, e questo è il problema per cui a volte ci sono troppi esami e sono solo, esagerati. Ma questa è anche la via attraverso la quale ci saranno sicuramente delle altre cause, perché è ovvio che una frase del genere è opinabile, è interpretabile. Quindi ci sarà sempre qualcuno che potrà andare in causa col proprio medico, purtroppo, nonostante credo il decreto Lorenzin voglia mettere una pezza su questo. Abbiamo anche qualche risposta alla nostra domanda, insomma, l'epoca storica nella quale volete vivere, nonostante Miss Italia. Io vorrei assistere alla caduta del muro di Berlino, molto importante in tempi come questi, ci scrive Tonio Monda su Twitter. Sì, questo l'ho letto, non è male, soprattutto perché parla con due che diciamo quell'epoca l'hanno vissuta, perché è l'89, non è esattamente... Io nel 90 ero in Germania addirittura. Pensavo mi dicessi io nel 90 non ero ancora nato. No, magari. 800 24 0024, vi aspettiamo con la vostra epoca storica. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, ben ritrovati e buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Si riempiranno i pronti soccorso, dice un ascoltatore al 349-238-6666. Con il DDL, con il decreto Lorenzin. Vediamo chi ci chiama. Serenella, intanto da Roma. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Grazie della bellissima trasmissione. Grazie. Allora, io, insomma, quando mi piacerebbe vivere, bastano 50 anni fa, negli anni 60, quando i ragazzi avevano le speranze, credevano in qualcosa, nelle famiglie si parlava. Io sono del 58, sì. E quindi ricordo che quando ero ragazza... L'hai vissuto, Serenella, un pochino? Come? Sì. Poi l'hai vissuto? Cioè, si credeva in qualcosa, si facevano le lotte, eccetera. Invece i figli miei, come tutti i figli delle mie amiche, sono disillusi, vivono nel loro mondo, ognuno davanti a loro l'iPad, l'iPhone, si parla poco in famiglia. Quindi io che ho vissuto l'emozione anche di stare insieme in famiglia, aspettare l'estate quando finivano le scuole per guardare i film in bianco e nero che proiettavano televisione la mattina. Cioè, una grande nostalgia per quegli anni 60. Sì, ma senta, ma lei vorrebbe... Vivevamo di speranze, credevamo in qualcosa. Ma vorrebbe tornare in quegli anni lì con l'età che ha... Sì, con non si rideva per un film di Walter Chiari o per... Senta, abbiamo capito. Senta la domanda. Ma vorrebbe tornare lì all'età che ha adesso, o vorrebbe tornare lì all'età all'età che aveva. Allora. No, anche adesso, perché avrei dei figli diversi. Quindi le andrebbe bene anche con l'età di adesso. Però c'era, sì, cosa c'era? La guerra diciamo in Vietnam. Diciamo c'era che se fosse un periodo. Vabbè, che di... c'entra? Io ho vissuto le speranze, l'emozione di credere in qualcosa, anche a livello, a tutti i livelli, anche a livello politico. Cioè ormai c'è una confusione enorme, non ci si, sì, non si crede più, non ci hanno gli ideali di una volta. C'era tanta speranza. I ragazzi di oggi invece non hanno più speranza. Lo dovrebbero capire i nostri politici. Cioè, però bisognerebbe fare qualcosa per ridargli la speranza, sì, ovvero nel senso, se fosse un concorso di Miss Italia qualcuno potrebbe dire che lo facciamo come gioco ovviamente, che anche, sì, questa è una gaffe, perché uno dice ma come, nel 68 è iniziato il terrorismo rosso e il terrorismo per strada e la guerra in Vietnam e quello che è stato, però è molto chiaro l'appunto che fa, perché che io fa lei su... ho vissuto grandi emozioni, sì, che adesso non, i giovani di adesso no. C'era anche più inquinamento forse negli anni 60, no, non lo so. Questo non credo. Va bene, Serenella, grazie. Beh, comunque era bella la risposta. Lei lo ha vissuto, del, certo, resto ci vorrebbe tornare. Era un'epoca esaltante, non so se viene calcolata come ammonizione, perché dire di voler tornare in un'epoca che hai anche già vissuto sembra un po' un ritorno a quando tu, vabbè, eri più giovane. Però mettiamo, lei giustamente ci ha detto no, anche a quest'età, perché i miei figli avrebbero più speranze. Mettiamo agli atti, Serenella. Anni 60, 68, traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Fa il cinghiale, dai, prova a sparare, prendi la mira tra i cespugli verdi, stai attento che se non lo perdi, zoom, zoom, zoom, fa il cinghiale, dai, prova a sparare. Dall'abbattimento della spesa sanitaria a, con un salto proprio carpiato, all'abbattimento dei cinghiali. C'è una parola che torna, abbattimento. Sì. Dentro il parco di San Rossore almeno, perché insomma questa è stata un'estate nel quale sono state, non scherziamo, tre vittime per i cinghiali. O anche un incidente stradale legato al cinghiale, da capire, però insomma all'Aquila, a Cefalù e a Frosinone. E incidenti innumerevoli, perché ovunque parli con persone aggressione. Che sono vicini ai cinghiali dicono, sì, ci hanno distrutto tutto. Negli ultimi 10 anni il numero di cinghiali è raddoppiato, lo dice la Coldiretti. Che cosa fare? Al parco di San Rossore hanno trovato una soluzione, un piano di controllo e di abbattimenti. Ne parliamo con il direttore del parco di San Rossore, Andrea Gennai. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, quanti cinghiali ci sono dentro il parco di San Rossore? Sono troppi intanto? Ma ormai in Italia i cinghiali sono tanti, troppi quasi dappertutto. E grazie anche un po' all'opera di protezione dell'ambiente stanno aumentando anche altri ungulati, daini, cervi. L'Italia si sta molto ripopolando e quindi c'è bisogno di gestirli. Cioè è un bene perché c'è la fauna, siamo tutti contenti, ma è anche un male perché quando sono troppi bisogna intervenire. E voi l'avete fatto? Ma come? In realtà i parchi lo fanno da tanto, lo prevede la legge in vari modi, perché i parchi sono diversi. In alcuni si fanno catture di animali vivi che vengono, se possibile, liberati in altre zone dove possono tornare in libertà. Alcune specie come il cinghiale, ma anche, sì, il zaino, in Italia non si possono più mettere da nessuna parte, quindi ci dispiace, ma queste bestie devono per forza arrivare, diciamo, a morte, devono diventare alimentare poi una filiera che è quella di prodotti della carne di questi animali. Sì, a me è venuto un dubbio, perché voi come Parco di San Rossore avrete delle risorse, insomma, anche per intervenire. So che vi siete affidati a un'azienda privata, però si è parlato del fatto che non ci sono i piani faunistici in Italia, l'ha detto l'EMPA, la protezione animali, quindi che insomma la caccia viene fatta un po' a casaccio da parte dei cacciatori, perché non si sa a chi sparare, a cosa, dove, quando, perché. È vero? Dipende dalle specie. Su quasi tutti gli ungulati, cinghiale escluso, in tutta Italia si fanno i censimenti, si stabilisce se sono troppi e si decide quanti toglierne. Sul cinghiale effettivamente questo non viene fatto e si va un po' a casaccio, anche perché è molto difficile censirlo, questo animale. Perché? Però ecco, la novità, lei si riferiva all'utilizzo dei privati, la novità vera è quella che stiamo cercando di portare avanti, cioè di trovare ditte specializzate che fanno questo lavoro, come per la gestione dei boschi. Si chiama una ditta che ha operai, sistemi di sicurezza. E come agiscono queste private? Sulla fauna questo non è mai esistito, non ci sono ditte specializzate sia sulle catture e soprattutto sugli abbattimenti. Ah, e quindi voi a chi vi siete rivolti? Le stiamo facendo nascere, cioè abbiamo deciso, e questa è la novità politicamente, di affidare le cose non più, diciamo, agli sportivi, ok? Al di là delle persone del nostro parco che le fanno. Cioè ma degli specializzati del settore dell'abbattimento. In questo modo nascono figure professionali, si dà lavoro a della gente, però gli si affida un obiettivo come in qualsiasi appalto, se raggiungono quell'obiettivo. Io pensavo che lo facesse la Guardia Forestale. Questo è che dico, nel senso che non siete voi lo staff del parco che dovreste essere gli specializzati invece che pigliare una ditta esterna privata? Qui a Sarrosoli hanno sempre fatto le nostre guardie. Il problema, come sapete adesso, il blocco delle assunzioni impedisce di fare assunzioni anche qualora io trovassi soldi per pagarli. E quindi il personale diminuisce sempre di più e noi non riusciamo a portare avanti l'esternalizzazione degli abbattitori. Bravo. Ma come li uccidono questi cinghiali, i vostri? Ecco, diciamo, questo è un altro messaggio che voglio dare. Molti pensano che le catture sia il sistema migliore. In realtà catturare l'animale gli provoca comunque stress e poi, se deve andare per forza a morte, tutto quello che c'è dopo non è tanto bello. Invece animali cresciuti in natura, vissuti ai liberi fino alla fine, poi vengono abbattuti da un telecontrollore con una carabina che a 200-300 metri di distanza spara e l'animale in un attimo, diciamo, cessa di vivere. Sì. La sofferenza è veramente minima. E poi la carne dell'animale viene utilizzata? Oh, questa è l'altra cosa, perché invece di prendere strade strane, essere lavorata nella casa di qualcuno e arrivare nei ristoranti in maniera irregolare, noi, perché questo è quello che succede già adesso. È ovvio. Oggi succede questo, chi va al ristorante e mangia cinghiale non credo che la provenienza possa essere diversa da quella. Invece noi nel parco da anni abbiamo un centro di lavorazione segnalato dalla USL, che la USL ci viene a controllare gli animali che vengono abbattuti, eviscerati, sistemati, e noi li vendiamo da anni ai privati, ai ristoranti. Io devo salutarla perché abbiamo finito il tempo a disposizione. Grazie Andrea Gennai del Parco di San Rossore, c'è il giornale radio. Grazie mille. Ci risentiamo tra poco, però c'è un sacco di telefonate sul gioco, di chi chiamateci, vuole vivere le vostre negli anni preferite. Di Pompei, prima dell'eruzione del Vesuvio, oppure nel Medioevo, oppure all'epoca di Ramses II addirittura. Li sentiamo tutti dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Grazie. ascoltando è Si può fare, questa che invece abbiamo appena ascoltato è Bianca Azzei che ci canta Riderai, la canzone segnalata dall'ascoltatrice Giovanna da Sassari. Vi ricordiamo che noi siamo sempre in cerca dei vostri Si può fare in musica, quindi se siete dei compositori, dei cantanti o anche semplicemente degli ascoltatori, avete una canzone che volete segnalarci perché secondo voi esprime in maniera perfetta il concetto di Si può fare, fatelo, lo potete fare scrivendo alla nostra redazione oppure sui nostri account social, quindi su Facebook Si può fare trattino Radio 24 oppure sull'account Twitter che è @ Si può fare 24 oppure sui nostri account personali, il mio è @ Carlo Gabardini e il mio è @ Ale Maurizi. Fra l'altro c'era già una Riderai, non era quella di Bruno Lauzi, adesso c'è una riedizione. Si ride sempre, si ride ancora. Si ride per non piangere, chi è che lo diceva? 800 24 00 24. Cari ascoltatori, questa mattina siamo partiti dalla stretta sugli esami clinici inutili promessa dal ministro Lorenzin e abbiamo cercato di capire se è una buona notizia oppure se invece il taglio delle prestazioni e il ricorso alla sanità privata non siano dietro l'angolo e quindi in realtà non siano una buonissima notizia. Ne abbiamo parlato con un esponente dell'associazione Cittadinanza Attiva, ci siamo messi dal punto di vista dei pazienti perché i medici si sa sono tutti contrari e poi aspettiamo i vostri interventi. Ne abbiamo in linea alcuni, cominciamo con Vincenzo da Livorno. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Dunque, io sono un donatore. Sì. E fino a qualche tempo fa. Sì. Un donatore di sangue? Ah sì, penso. Sì, donatore di sangue. Perfetto. Certo. Scusi. No, ci mancherebbe. Niente, ci mandavano gli esami completi ogni donazione. Sì. Cioè chi fa il donatore di sangue ha gli esami gratuiti totali del sangue. Perfetto. Non solo, prima davano anche le giornate pagate sul lavoro, no? Sì, permesso sul lavoro mezza giornata. Sì, è vero. Invece adesso non è più così? A un certo punto hanno tagliato questi esami. Sì. Fanno solo quello che devono fare per legge, che gli interessano a loro, e per il donatore non c'è più nessun vantaggio. Li fanno una volta all'anno. Ah, ok. Ma lei quante volte dona invece all'anno? Allora, il sangue una volta ogni tre mesi, quindi quattro volte all'anno. Sì. Beh, però, se invece dono il plasma è una volta al mese. Però per l'analisi una volta all'anno è già buono, no? Perché insomma, ora addirittura ogni quattro mesi le analisi complete, ogni tre mesi sarebbe... Cioè, se si può, nei tagli, diciamo, fra tutti i tagli, forse non è il taglio più terribile il fatto che i donatori, invece che quattro esami del sangue all'anno completi, ne fanno uno. Grazie poi ai dopo... donatori, comunque, sempre. Ma è una questione di principio, no? Il dono del sangue non ha un prezzo. Sì. Un esame che costa pochissimo, insomma, mi sembrava... Giustamente lei dice donare non ha un prezzo, quindi uno può continuare a donare anche se non gli regalano in cambio gli esami del sangue. Sì, questo è vero, però anche per la sanità, se continuano a fare gli esami non ha un costo così alto. Va bene Vincenzo, grazie. Solo l'ultima cosa, guardi, loro volevano levare anche tutte le giornate arretrate sui contributi, quindi quando si sono resi conto della cavolata che volevano fare sono tornati indietro, perché sennò il sangue non lo donava più nessuno, quindi tentano di fare i tagli lineari. Ha ragione, i tagli non vanno bene, i tagli lineari, poi i donatori di sangue vanno trattati benissimo, no, bisogna continuare a donare una sangue. Volta all'anno mi pare però che basti, fra tutti i tagli mi sembra meno grave il taglio. Va bene. Sui donatori. Francesco da Forlì, buongiorno. Buongiorno a voi, ciao a tutti. Buongiorno. Vi stiamo anche chiedendo in quale epoca storica vorreste vivere voi, eh? Vediamo se fate più bella figura di Miss Italia, poverina. Beh, io, come ho detto, a me piacerebbe vivere Pompei nello 0, 10 dopo Cristo, cioè diciamo prima del... Nello 0? Del Vesuvio. Sì, più o meno. Sì. Perché l'eruzione è esattamente di che, quando era? Quando è stata? Mi sembra 32, 42, sì, non mi ricordo. Sì, poco dopo, esatto. Più o meno, sì. Poco dopo lo zero, diciamo, dopo la nascita di Cristo. E quindi? No, perché? Perché? Perché no. Esatto, perché vuole vivere a Pompei? Ci vuole un perché? Ma, sì, certo. Per fare il sovrintendente. No, il primo della storia. Lascio gli intelligenti quel lavoro lì. No, per vedere le attività, le artigianali, quelle teatrali, le commedie, sì, come veniva gestita la questa vita. Questa fiorente civiltà bellissima di cui si parla e di cui abbiamo tracce. Io già 25 anni fa, quando iniziai a fare l'imprenditore, cercavo già allora uno sponsor per creare un villaggio, non dico Gardaland, però comunque fare una cosa chiusa dove il turista vestito come gli attori, diciamo, all'epoca così, vestito da... potesse vivere dalle terme a una commedia in una questo laterale, è un'idea, non, non Gardaland tutto. Gardaland no, perché Gardaland la Pompei sarebbe una pagliaccia, però è vero, cioè una come dire, far vivere al turista un'esperienza di rievocazione di quell'ambientazione lì, magari nei pressi di Pompei, non è un'idea. No, no, devo dire che io personalmente, se andassi all'epoca di Pompei, la cosa che mi sembrerebbe anche molto utile e divertente è dire, secondo scattate me state... Secondo me sta per arrivare un'eruzione. Attenzione, ho la sensazione che qua finisce malissimo. Va bene, facciamo il traffico, poi torniamo tra un attimo ancora con gli ascoltatori. Vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Intanto, cari ascoltatori, abbiamo verificato, non ci vuole moltissimo, Pompei, l'eruzione del 79 dopo Cristo. Beh, insomma, non eravamo lontanissimi, dai, no, il secolo era giusto. Assolutamente. Poi qualcuno mi fa un appunto mandando un SMS dicendo: Gabardini, ma lei ci è o ci fa? Che doveva tutto donare? Tutte e due. I reni, rendiamoci conto, chi fa la radio? Beh, niente, volevo dire che si può donare tante cose, nel senso che si possono donare certo anche gli organi, si può donare il midollo, l'AMREF cerca donatori di acqua, si possono donare dei soldi, per esempio. Uno che dice sono un donatore, solitamente è uno che ha donato, per esempio, dei soldi per una fondazione. E l'elenco è ancora lungo. No, ma così la cosa, rendiamoci conto della fa la radio e chi manda gli SMS. La cosa dell'ascoltatore prima, buffa, è che faceva gli esami, dona il sangue 4 volte all'anno, se ho capito bene, e faceva gli esami tutte 4 volte. Ora, io non dico di arrivare a ogni 5 anni come vuole fare la Lorenzini per i trigliceridi, mi sembra troppo, ma anche 4 volte all'anno, forse passare a una volta all'anno ci può stare. La cosa donatori che va di detta, sangue, chiamateci che... se corrisponde alla versione di Vincenzo o seppure ci è sfuggito qualcosa, esatto, perché i donatori vanno sempre. No, ma soprattutto va detto, ma i donatori sono fondamentali, lo sappiamo, e soprattutto va detto un'altra cosa, che gli esami del sangue sono un po' obbligati a farli loro, nel senso che devono, io preferisco che venga controllato il sangue, perché poi quello è il sangue che non si sa a chi deve andare, quindi è ovvio che devono fare gli esami del sangue e semplicemente glieli comunicavano, però forse fanno un certo tipo di esami specifici e non quelli che servono al donatore fatti ogni 3 mesi. Alessandra da Genova, buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa voleva intervenire, Alessandra? No, io niente, ho detto semplicemente che mi piacerebbe vivere nell'antico Egitto, perché è una mia passione sin da quando ero bambina. L'Egitto. In quale fase, diciamo così? Mi piace tutto, però ho detto Ramses II perché è uno dei periodi di maggiore splendore. Che epoca era Ramses II? Oh, mi sembra 18ª dinastia. Preparata, chissà però se... Ecco, non mi ricordo le date, ricordo la dinastia. Ma ci mancherebbe. E cosa farebbe se potesse per un attimo essere lì? Ecco, allora, due cose. Una cosa vorrei vedere come viveva veramente la gente, le case dei poveri, dei ricchi, entrarci dentro, sarebbe un'emozione. Vedere come si vestivano, cosa mangiavano. C'erano realmente gli schiavi a quell'epoca, c'erano molti schiavi, gente che viveva male. Sì. Ma a quell'epoca sì, ma non era colpa degli egiziani. Quindi lei spererebbe di rinascere non schiava, ecco, questo sì. Io vorrei rinascere sacerdote. Sacerdote. Per vedere le però cerimonie. Statisticamente era più per probabile che lei l'imbalsamazione. Sì, certo. Statisticamente, scusi, però è più probabile che lei rinasca come in forma di schiavo, perché la maggior parte delle persone erano. Sto cercando di farla cadere in contraddizione. Una cosa brevissima. Prego. Mio figlio mi dice sempre, mio figlio ha 37 anni, ma da quando era ragazzino, ma proprio ragazzino, mi dice: mamma, il passato rinasce nel passato, bello purché si nasca dalla parte giusta. Brava, aveva già capito tutto. Certo, no, ma abbiamo detto questa cosa semplicemente perché ci piaceva ricordare il fatto che comunque in la maggior parte delle epoche storiche accadono anche delle cose terribili, e quindi se tu chiedi a una Miss Italia in che epoca vuoi vivere è molto facile che comunque poi siamo tutti d'accordo che dire il 42 è molto complicato, perché in effetti è la cosa più presente, la guerra mondiale. Ma soprattutto non fate le domande alle miss in costume, fatele sfilare. Comunque, oppure vestitele. Ha dato un'ottima risposta il giorno dopo, le hanno detto qual è il tuo personaggio italiano preferito, lei ha detto Michael Jordan, quindi diciamo non si smentisce. Adesso una storia tutta da ridere. Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filo logico portante e che sia piena di bei ragionamenti, insomma una canzone intelligente che spieghi un po' di cosa. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare. Lo sciocco in blu. Buongiorno Joel Dix. Buongiorno, buongiorno a voi. Ben trovato da ieri fino a domenica. Joel Dix è uno dei protagonisti del festival che si tiene a Livorno, Il senso del ridicolo. Mai una città fu più... No, non lo so, sto sbagliando. Scelta meglio forse di questa. Giusta, giustissima, sì. Beh, Livorno. Acidità, ferocia, simpatica, mai omicida, ma insomma... utile che hanno i livornesi. Simpatica, ma si può far di meglio, Gioele. Io so, tieni conto che io sono di Pisa, quindi Allora sono simpatici i livornesi, però insomma, non è che sia Invece voglio molto bene ai livornesi. Ci sono stato poco fa e quindi ci mancherebbe. Allora, mi sembra il posto perfetto per il Festival del Ridicolo. Sì. Immagino vogliate sapere dove volevo vivere, eccetera. Ah, per esempio, sì, in quale epoca? No, perché ho sentito che... Certo. Ce l'hai? A me sarebbe piaciuto il Settecento, l'illuminismo francese, lavorare vicino a Diderot, che faceva l'enciclopedia. L'enciclopedia. No? Anche se, come dicevate prima, se non nasci dalla parte giusta, magari sarebbe finito che andavo a venderle. A venderle casa per casa, perché sono nate insieme, giusto? L'enciclopedia e la vendita casa per casa. Tanto essendo una cosa sconosciuta, la gente sarebbe infastidita ancora di più del normale. Sì. Cos'è questa enciclopedia? Questo già viene a rompere le scatole, eppure per vendere una cosa che non si sa cos'è. Ma c'è una voce specifica che avresti voluto scrivere nell'enciclopedia di Diderot? Beh, sì, avrei voluto scrivere il comico. Voce... No, sì, la voce comico. La voce comico o la voce non si sa perché, tipo. Non si sa perché. Sembra il forse non tutti sanno che è della settimana enigmistica. No, potevi fare la voce comica, così tra gli esempi mettevi in primo piano Joelle Dix, così ti facevi un po' di pubblicità. Un fantastico comico che nascerà del Settecento. Esatto. Che no. Parliamo di questo festival. Allora, come, quando e perché ridiamo? Il festival, lo ricordiamo, è diretto da Stefano Bartezzaghi e si tiene fino a domani a Livorno. Come, quando e perché ridiamo? Si potrebbero analizzare anche queste tre cose proprio quasi approfonditamente. Per esempio, come ridiamo? No? Io mi sono segnato alcune cose a denti stretti, a cuore aperto, come si dice, da morire da ridere. Certo. Però, È uno strano mistero in realtà, perché è una specie di cortocircuito grazie al quale scatta questa cosa che è in realtà un bisogno. Infatti si ride quasi sempre, ce n'è bisogno, una necessità fisiologica. Io ricordo sempre mio nonno che mi raccontava una storiellina quando ero proprio bambino, che diceva dei due che erano stati al funerale e erano un po' sul fondo, quindi non erano proprio coinvoltissimi, però alla fine della funzione guardavano l'orologio e dicevano: beh, ridendo e scherzando è un famesdì, ridendo e scherzando abbiamo fatto mezzogiorno. Che gaffe terrificante. Perfetta questa, beh, perfetta. Tra l'altro sì, proprio non c'è mai un momento migliore come purtroppo quando ti capita di passarci dentro un funerale per sdrammatizzare. A un certo punto ci vuole qualcuno che lo faccia, no? Sì, sì, è necessario. Naturalmente non si può farlo proprio in maniera così. No, magari non in quel modo lì. Io ricordo di aver fatto una gaffa nella mia vita terribile, proprio andando a salutare una vedova. Sì. Ho fatto quello che a volte succede, cioè ho detto quello che pensavo avrebbe detto l'altra persona, magari per imbarazzo, per mancanza. mancanza di concentrazione, e allora sono andato, siccome era una persona che aveva sofferto un po', sono andato lì e con un grande sorriso le ho detto: è stata una liberazione. E non è bellissimo, insomma. No, perché doveva dirlo lei, forse, esatto. Esatto. Invece l'hai detto tu. Tutti avranno pensato che dovevi 200.000 lire al defunto. Esatto. Gioele, ma tu questo è uno dei meccanismi, il rovesciamento è una delle voi chiedevate, dicevate come e perché. Sì. È uno dei meccanismi del comico. Beh, poi si ride per gli errori, no? Anche per i difetti delle persone, per delle cose su cui appunto non bisognerebbe assolutamente, però quando vediamo qualcuno che soffre tremendamente. Tu avevi il tuo celebre automobilista perennemente incazzato nero. Sì, certo. Quello è addirittura, quello è un altro sistema, nel senso che racconti, incarni le cose peggiori di te e anche degli altri. Sì. E gli altri reagiscono volendoti bene, perché si vedono specchiati, e quindi anche se sei un personaggio schifoso li fai ridere e ti vogliono bene. Infatti, senti, ma con tutta io questa... ho smesso di essere un automobilista incazzato dopo che ho fatto quella cosa, mi ha fatto da terapia, no? È stata liberatoria. Catartico. Sì, non riuscivo più a fare delle scene perché la gente mi vedeva e diceva: dai, ma falla finita. Ma oggi l'automobilista ha ancora senso, incazzato nero, perché con tutta la mobilità sostenibile che c'è, che si parla, ma che è insostenibile. La mobilità insostenibile, no? Poi tutta questa cosa, l'automobilista è incazzatissimo, che adesso c'è il car sharing, dividere la macchina con qualcuno è una cosa inconcepibile, ognuno ha la sua e basta. È vero. Guai a chi sa le sue, eccetera. L'automobilista è tradizionalista e non si deve cambiare, ma mai nella vita. Senti, per esempio, Renzi ti fa ridere parlando di satira? No, assolutamente no. Non molto. No. Ti fa piangere? No. Cioè, così. Indifferente. Però lui è un po' pancetta, c'ha la lisca, c'ha il neo, c'ha le giacche troppo corte. Un po', no. Sì, è vero, però devo dire che sulla satira di questo genere, cioè di prendere di mira i politici, ho letto una cosa bellissima di Calvino, che la diceva in tempi non sospetti, cioè molti decenni fa, che diceva che questo tipo di comicità è una comicità che crea un po' una dipendenza, cioè il satiro diventa un po' schiavo della presenza del satireggiato, no? Cioè, Calvino Renzi, ha detto questa cosa. Ha bisogno di Renzi, e quindi in un certo senso è un modo per continuare a far vivere i personaggi che critichi. Questa cui... cosa qua che hai detto è diabolica, è vero. E quindi insomma, infatti, vedi che molti comici, se gli togli il loro obiettivo negativo, sono a pezzi. Infatti bisogna cercare di lavorare altrove. In alcuni casi addirittura il comico fa quasi un favore al satireggiato. Per esempio pensiamo a Bersani, quando Crozza lo ha reso divertente, certo. Le sue è vero anche nell'altro senso, nel senso che è indubbio che ci sono tantissimi comici che sono orfani di Berlusconi in questo momento, che in realtà quasi gli manca. Quasi tutti. Quindi giustamente ci fu un famoso pezzo di Paolo Rossi che era la preghiera del comico, del ringraziamento, dove addirittura ringraziava a un certo punto Craxi, perché diceva: se non ci fossi stato Craxi io non sarei riuscito a fare 3-4 spettacoli di comicità. E invece Joey Dix è uno di quei comici che non ha mai fatto questo tipo di imitazioni, no? Mi pare. No. Io ho fatto in un periodo, mi sono macchiato dell'imitazione di Alberto Tomba. Ah, è vero, sì. Abbastanza per caso, perché però devo dire che in quel periodo mi chiamavano tutti Alberto, quindi mi sono reso conto che comunque c'è una identificazione. Lui però era veramente fantastico, perché aveva un modo di pensare del tutto speciale, insomma, molto veloce, come sciava, cioè abbandonava un pensiero per un altro come i paletti dello slalom, e quindi era un bellissimo esercizio mentale. Solo che a sciare era sicuramente più coerente, forse. Era più grande, sì. Senti, Zelig quest'anno non si fa, è vero? No, non si fa, si dovrebbe fare a ottobre. E dovrebbe essere probabilmente un'ultima edizione, diciamo, celebrativa, scintillante, eccetera. Si dice da molti anni ultima edizione. E poi va avanti, sì, è un meccanismo, una formula che... Sì, no, quest'anno c'è stata questa pausa che però è una pausa relativa, nel senso che si riprenderà a ottobre. Mm. Adesso ti voglio fare una domanda, puoi anche andartene su questa domanda, sì, perché sì, la classica domanda è impossibile. E fare la comicità oggi con il web che sta esplodendo, ci sono tanti esempi, il Terzo Segreto di Satira, altri che fanno cose divertentissime e egregie. Bravissimo. Tu come la vivi? TV, teatro, web, come... Bene, nel senso che, anzi, secondo me questa forma del web è una forma, è un'evoluzione interessante della comicità televisiva, che ha comunque cambiato un po' i parametri, perché occorre essere molto sintetici, molto andare subito al cuore. È un bel esercizio anche per il comico, anche perché il comico comunque deve far ridere entro una ventina di secondi. Deve arrivare prima o poi. Sì, e quindi il web, che ha un consumo rapidissimo, insomma, bisogna andare al cuore, cioè noi tutti guardiamo una cosa se dopo 3-4 già ci ha rotto le scatole i 7 secondi di pubblicità, e poi entro altri 7 secondi non succede niente, almeno nel mio caso io vado altrove. E quindi bisogna sapere che la regola di ingaggio è questa, cose molto rapide, sì, però sono interessanti. Del resto la battuta è noi questa sera a Livorno parleremo dei fratelli Marx, che sono fra i miei prediletti, e Groucho Marx, che era insomma il più famoso dei cinque, era famoso per queste sue battute scintillanti. Era uno adatto al web. Poteva essere era uno da web, diceva: questi sono i miei principi, se non vi piacciono ne ho degli altri. E questo per esempio è meraviglioso come metodo, insomma. Gioele, grazie per essere stato con noi. Non vi ho sentito più. Eravamo qua. No, eravamo qua, c'è stato un problema di linea. Perché Groucho Marx, sai, arriva e tu rimani lì e ci ripensi. Ma è molto bello poi ricordare Groucho Marx, che la maggior parte lo ricordano in realtà per Dylan Dog, per dove Dylan c'è Dog, il personaggio, sì. Però Groucho Marx è stato un gigante della comicità. Soprattutto è stato un po' un po' il padre di tanti, diciamo, i fratelli Marx sono come i fratelli bandiera per il Risorgimento, insomma, con gli dovuti cautele, sono dei fondatori, ecco, verissimo, grandi, verissimo. Quando l'appuntamento che ti riguarda, quando è, lo vogliamo dire? Stasera alle 21, Piazza del Luogo Pio, sì. Quindi è un luogo dove non si potranno fare cose molto, troppo eccessive, molto. Esatto, è un'intervista, diciamo, pubblica con Sara Chiappori, che mi intervista. Poi domani, anche domattina, faccio una cosa invece con Stefano Martezzaghi, parliamo di tutti i casi di fastidio degli altri, e con degli supporti letterari molto divertenti. Parliamo della impossibilità oggi di fare gli eremiti, per esempio, che oggi se uno volesse staccarsi dal mondo ti vengono a trovare ovunque. Ovunque ti chiedono. Bene, grazie mille Gianni Dix, un grande grazie. Abbraccio, arrivederci. Grazie ciao. Mille, ciao. Ah, va bene. Allora, ascoltatori, 800 24 00 24. Ah, così era, perché è un piacere parlare con Gioele Dix. L'appuntamento l'abbiamo ricordato, Il Senso del Ridicolo a Livorno. Ci risentiamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno e ben ritrovati. Ornella ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa vuole intervenire, Ornella? Allora, per l'epoca in cui si vorrebbe vivere. Sì, siamo tutti orecchi. A me piacerebbe vivere nel tempo storico in cui si scriveva a mano, perché ho soddisfazione a scrivere a mano, e in quell'epoca, diciamo, si sarebbe sentita padrona, esatto, della situazione. Ma che cosa intende? Ma che cosa intende come quelle, nel senso, tutto ciò che c'è prima di Gutenberg, da quando arriva il carattere, esatto, stampa. Però il carattere stampa, esatto, dopo si continua a scrivere a mano ancora per centinaia di anni, insomma. Si, sì, si, diciamo, scrive a mano tuttora, in realtà. Sì, anche poco, in poco. Epoca più recente. Però, insomma, quando negli uffici si scriveva ancora, non so, il certificato a mano, sì, eccetera. La bella calligrafia le piace, magari? Esatto, sì. Perché a scuola, logicamente, ho fatto bella calligrafia, perché c'era questa materia. Sì. Bella grafia, calligrafia significa già bella. sì, infatti, si scriveva in posato inglese, in gotico, c'era tutta la struttura per fare queste scritture. Sì. Lei Ornella, è una di quelle persone che ha una firma molto così elaborata, molto pensata? No. Molto leggibile. Molto leggibile. Sì. Va bene, Ornella, grazie. Bello, mettiamo agli atti anche. Però che l'anno, Ornella, l'anno in che anno vorrebbe proprio andare? Perché così è un po' vaga, ha ragione Carlo. No, ma mi sembra interessante che sia un momento, cioè più una motivazione che un anno preciso. Cioè mi piacerebbe tornare a scrivere a mano, quindi per me è valida la risposta. Esatto, è uno stato dell'anima più che della storia. Esatto. Va bene. Grazie Ornella. Grazie mille. Bella questa. Salve. Andiamo. Arrivederci. Facciamo un altro ascoltatore, abbiamo l'ospite. Ascoltatore Anna da Salerno, buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno. Sono una donatrice di midullo e sono una donatrice di sangue. Brava, ottimo. Complimenti. Quello che chiedo adesso, sì, è vero quello che ha detto il precedente ascoltatore? Ascoltatore, che non fanno più le analisi? Perché io l'ultima donazione 5 ml. Sì. 4 volte all'anno, sì, perché ho 52 anni, sì, quindi posso donare di più. Ho anche chiesto un esame particolare, loro mi hanno detto sì, ma è un mese e mezzo che non ricevo nulla. E non è giusto, perché non è il fatto di donare e volere qualcosa in cambio, è donare del sangue e sapere che si sta bene per poterlo fare ancora. No, ma guardi, da quello che abbiamo capito, in realtà gli esami il sangue, ovviamente viene fatto l'esame di modo per capire se il sangue è idoneo alla donazione. Però mentre una volta venivano anche consegnati ai donatori gli esami del sangue, adesso viene solamente fatto una volta all'anno, a meno che da questo esame non risultino ovviamente che uno abbia delle patologie. A quel punto comunque ovviamente la struttura pubblica dice: guardi che abbiamo fatto l'esame del sangue, le conviene che vada a curarsi. Punto, secondo me bisogna che quelli che si occupano delle pubbliche relazioni mandino un messaggio ai donatori e gli spieghino quello che sta succedendo, perché ce ne sono già un paio che stamattina si lamentano. No, più che si lamentano è che non si sa, esatto. Ma poi probabilmente non è uguale in tutta Italia, perché c'è chi ci dice, chi ce lo racconta appunto dal Friuli Venezia Giulia, che ci spiega che è così, che quindi solamente in caso di necessità di cure l'azienda ospedaliera avvisa il donatore che ci sono dei problemi. 800 24 00 24. Però dopo poco sono arrivati loro, come tanti pirati dal mare, in 6.000 sopra ad un gommone, con la furia, Dio che furia, con la furia di un pesce cane, con la rabbia di un uragano e la violenza della rivoluzione. Come tanti pirati bendati, con coltelli minacciosi affilati, stretti in mezzo ai loro denti sbeccati e con le carianche dentro i vestiti. Brutti sporchi, cattivi, arrabbiati, arrivati per rubarci l'oro e scappare via con il bottino e poi tornare con i carri armati. Ma che bello era il mondo quando eravamo intregati ed è stato uno sbaglio popolarlo di tutti, perché sì, stava meglio prima dei tempi, bei tempi, quando eravamo in 300 Neanderthal, ma veramente contenti. Ma che sulle note di questo Piero Sidoti, che è stato anche nostro ospite qualche tempo fa, parliamo di una notizia che riguarda la città di Parma, la gestione dei profughi, un progetto che mira a fare lavori socialmente utili e il volontariato a oltre 400 migranti ospiti in questa città, un numero superiore a quello che abbiamo mai sentito fino ad ora riguardante altre magari piccole esperienze. Una cosa che si dice sempre: i profughi sono una risorsa, poi sembra che non si riesca a fare mai. Buongiorno al sindaco della città Pizzarotti. Federico, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno sindaco. Vi devo correggere in partenza. Sì? Ma ho sbagliato subito. Sono... Sì, esatto. No, ma adesso sono su tutta la provincia. Sì. E adesso quindi, in tanti comuni della provincia si stanno giustamente lei è il sindaco della città di Parma, dice non ci sono solo io, ci sono anche gli altri comuni della provincia. Ce la farete a fare questa cosa? Ma alcuni comuni più piccoli, che quindi hanno anche più facilità a attivare certi meccanismi, hanno già iniziato da tempo, sì, sia in lavori socialmente utili, se pensiamo magari a dipingere dei cancelli arrugginiti piuttosto che fare delle piccole pulizie, o anche partecipare aiutando le feste di paese per regolare il traffico e quant'altro. Noi cominceremo dalla prossima settimana anche noi con dei lavori legati allo spazzamento, legati alla rimozione di quelle erbette che si vedono insomma in giro per i marciapiedi, di questi lavori semplici, perché ovviamente c'è un problema di assicurazione, insomma bisogna fare le cose ovviamente in sicurezza e quindi non si possono fare lavori molto complessi. Quindi insomma, ma ci conferma che il numero di, diciamo, di migranti coinvolti è di 460 persone? Allora no, dicevo, i migranti in tutta la provincia sono circa questo numero. Sulla città di Parma, sì, dove abbiamo un centro di smistamento, sono adesso 55, vado a memoria, più altri distribuiti sul territorio. Questi gruppi sono gruppi ovviamente volontari, perché non sono obbligato a fare questo tipo di attività, e quindi cominceremo con gruppi di 5 in 5 più o meno. Quindi l'obiettivo è coinvolgere tutti, se possibile. Sono 400 persone in giro che fanno questi lavori. Sì. E, senta, però, insomma, ecco, questa è la buona notizia, perché si sente sempre dire, no? Da un lato sentiamo dire, per esempio, la Lega Nord, che i profughi non ce li possiamo permettere, soprattutto gli immigrati economici. Adesso Salvini ha leggermente cambiato posizione, ma insomma gli immigrati sono un costo. Dall'altra si sente dire, ma il dovere della solidarietà umana, dobbiamo accoglierli, eccetera. In tutto questo sembra che la gestione proprio dell'emergenza organizzativa sia passi in secondo piano, e B, questa questione che voi a Parma volete fare di dare un senso alla presenza di questi profughi, fare il volontariato, i lavori socialmente utili, è utile per le comunità ma anche per queste persone, no? Perché che senso ha stare lì? Fondamentalmente, perché non è che si fa per richiedere in cambio qualcosa, sì, ma lo si fa perché attraverso questo tipo di attività, da una parte, anche per gli scettici, insomma, c'è la possibilità di vedere queste persone che si attivano come riconoscenza a un paese che ha fatto qualcosa per loro. Dall'altra, le persone stesse hanno modo di conoscere le persone che abitano nel quartiere, le persone che abitano in città, e farsi vedere per quello che sono ragazzi o adulti, perché sono andati in visita a questo centro di smistamento proprio per vedere sia le loro condizioni, sia vedere come si approcciano, se la loro intenzione è rimanere a Parma o in Italia o andare altrove. Sì. E sono persone volenterose che hanno voglia di fare qualcosa. Ecco, quindi lei ha trovato questo, delle persone comunque che hanno voglia di collaborare a questi progetti, perché a volte sentiamo di proteste di profughi che fanno casino perché non va bene il cibo, cose di questo genere. Allora, il mondo è fatto di persone, e quindi non penso che sia un problema di paese di provenienza, razza o religione, ma di carattere. Quindi immagino che ci saranno, come ci sono italiani o tedeschi che hanno volenterosi di fare qualcosa, e ci saranno che anche fannulloni, si lamentano. Certo, esatto, cioè c'è tutto, non si può c'è fare tutto. Una condizione come no, prego. No, come pure sul tema delinquenza. Il problema della delinquenza non è un tema di profughi o altro, è un problema di rispetto delle leggi e avere delle leggi efficaci. Se noi quei pochi riuscissimo a isolarli e a metterli in carcere, a rimandare nel loro paese, quello che si vorrà scegliere, si rimarrebbe la parte buona, che ha voglia di integrarsi, che ha voglia di lavorare in tutti insieme. Questo vale anche per gli italiani, dico, vale per tutti. Perché il problema è quello, quando rimangono in giro persone che comunque continuano a delinquere, io dico infangano il nome di tutti, che siano profughi o meno. Penso sia capitato la stessa cosa agli italiani in giro per il mondo, e certo, quindi l'importante è questo, il rispetto della legge. Certo, ma le volevo chiedere, mi scusi, stiamo parlando di persone che sono richiedenti asilo, giusto? Non sì, che hanno già l'asilo. Quindi no, richiedenti asilo. In realtà, no, perché giustamente lei prima diceva anche un modo per ringraziare un paese per quello che il paese sta facendo anche per loro. Certo. Mi chiedevo però, alcuni di questi, o forse tanti di questi, non gli verrà riconosciuta lo status di asilo politico, di rifugiato, chiedo scusa. Sì, però è d'altronde anche vero che li abbiamo comunque accolti. No, certo. Certo, certo. Spostati, quindi in ogni caso comunque finirà la loro vicenda, nella quale insomma non voglio entrare perché ognuno avrà la loro, come dire, la loro vita, ma adesso si sta facendo qualcosa e penso anche per loro il fatto di conoscere per la struttura che abbiamo noi non è vicinissima alle altre case, quindi non c'è neanche modo di incontrare molte persone. Certo. Voi pensate di essere in un posto con altre 50 persone che non conoscete senza aver modo di andare a prendere un caffè, di conoscere qualcuno, scambiare due chiacchiere. No, ma mi sembra fondamentale. Addirittura io la cosa che le volevo chiedere era se questo può aiutare anche la richiesta d'asilo, cioè se è in qualche modo un punteggio nel momento che io collaboro col comune. Può dare punteggio. Mi risponde dopo il traffico, però, perché abbiamo la pausa sulle informazioni sulle strade, a tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, ben ritrovati cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini in compagnia del sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Stiamo parlando del progetto Mi Impegno a Parma per far fare il volontariato, piccoli lavori socialmente utili ai profughi. Tra l'altro voglio commentare, se avremo il tempo, anche un'altra notizia che riguarda Parma, una buona notizia perché siete stato il comune più virtuoso nella gestione dei rifiuti, quindi tema di sostenibilità, da parte dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, che noi conosciamo da tempo, sono nostri amici e ci fidiamo molto dei loro giudizi, quindi complimenti intanto a Parma. Però sindaco, Carlo ha fatto una bella domanda: collaborare a queste forme di volontariato e di lavori socialmente potrebbe diventare per questi richiedenti diritto asilo un punteggio in più per avere questo asilo? Ma non so le regole con cui vengono giudicati e non penso, perché io penso che sia più il motivo di provenienza, sì, di partenza dal paese, e non tanto come si integrano o meno, come dire, nel nostro territorio, perché certo, potrebbero essere altri che si integrano allo stesso momento, arrivano da situazioni più gravi e quindi è meglio, come dire, prediligere loro, quindi su questo non entro. Faccio solo una puntualizzazione, sì, sul tema Mi Impegno a Parma. In realtà è un progetto per il volontariato, per aiutare la città, per tutti i cittadini, a cui abbiamo aggiunto, proprio in questo senso di accomunanza, anche i richiedenti asilo, ma anche altri cittadini. Abbiamo gruppi che aiutano, quindi anche altre categorie, insomma, di persone. Assolutamente, tipo chiunque voglia dare una mano ha la possibilità di farlo. Noi così garantiamo il progetto che fanno, l'assicurazione, il coordinamento, e danno la possibilità di dedicare un po' del loro tempo per la loro città, che era il messaggio fondamentale che volevamo dare. Quindi Mi Impegno a Parma, le persone che vengono valorizzate all'interno di questi progetti di volontariato, tutte le persone, dai, esatto, profughi chiunque voglia partecipare. Senta, esatto, su questa questione dei rifiuti avete ricevuto questa menzione dei comuni virtuosi, complimenti, cosa avete fatto per meritarvelo? Ma aggiungo che, come dire, fortunatamente, dico, per la nostra città abbiamo preso anche il premio Comune Riciclone per il comune più grande d'Italia con la percentuale più alta. Abbiamo parlato anche di questo. Il 70%. Il 70%. Molto piacere. Di raccolta differenziata, non è poco. Esatto. 70%. E soprattutto in una città di questo tipo, che ovviamente vuol dire continuare a lavorare, ovviamente ci sono delle problematiche da superare, perché una città più piccola c'è un controllo sociale su chi, diciamo, abbandona in orari non consoni i rifiuti, molto più grande che non in città più grandi. Noi abbiamo, oltre a un sistema porta a porta capillare, abbiamo anche stiamo introducendo una serie di flessibilità riguardanti la possibilità con la tessera di andare a conferire i propri rifiuti per esigenze particolari in qualsiasi orario della giornata, e altre situazioni di flessibilità, perché un comune più grande si deve trattare diversamente da un comune piccolo. Però insomma, con la nostra azienda, che sì, è IREN, insomma, sono due anni che lavoriamo duramente, ma i risultati si vedono e si vedranno ancora di più. Tra l'altro la Irene è quella famosa dell'inceneritore, adesso il governo ha lo studio 12 nuovi inceneritori. Voi siete la dimostrazione che non c'è bisogno di inceneritori? Assolutamente, ma infatti questo dà l'idea che se da una parte lavoriamo per, insieme per un obiettivo, dall'altra noi continuiamo a dire che gli inceneritori sono inutili, producono sicuramente delle emissioni di cui dovremmo render conto tra 20 anni, perché adesso è difficile fare un'analisi epidemiologica solamente su quello che esce in questo momento. Ne vogliono costruire altri 12 quando, se tutta la regione Emilia-Romagna, che ha 8 inceneritori attivi, facesse il 70%, che è un obiettivo che si sta ponendo la giunta regionale adesso, andare al 2020, sarebbero necessarie solamente 2. Quindi ce n'è già un sovrannumero. Noi dobbiamo, dobbiamo chiudere perché abbiamo il giornale radio, però gli voglio chiedere un'ultima cosa, 3 secondi. Lei quando si è insediata aveva detto che avrebbe sempre usato la bici per andare al lavoro, sta mantenendo questo impegno? Sì, o bici o piedi, perché poi la città permette anche questo, o abbiamo una piccola auto elettrica per gli spostamenti un po' più lunghi, perché non dappertutto si riesce ad arrivare in tempo in bicicletta.